due facce mi fare, a sicurezza non mi sembra, che la noia sarà, la vecchia che sempre si è voluta, arrivano a testi dai gente, a fanno sapere lui sai fare, che sta stem non c'è stata mai. On those three people that arrive, in the seconds I have a way, four and five are the personal, true it's true, personally true, using the things it can be easy, but if I don't then it's still could I, best slip who I know of my life, come here and sing the song, veni che cantiamo sta canzone. Sembra che altra voglio fare i cocchieri e ancora siamo sempre capi e non che rum e non fare da tutto sto mese e molto che assai per tu unfortunately something is waiting for us che è molto bello e we speak tra parentesi graffa some of the things of my sentences ci collega il ritmo al secondo tempo. Something bello, che a volte nunca stai fan, che dai cocchi con tuo amor, che sempre ti fa parare che tu ci fa micchia, con su caosca che arrivi in mezza tria, camma fai. Diamoci una ragnata, is that the one that loves you, can desolare some of the pain, hai capito bene, siamo gli unici. Veni che cantiamo sta canzone, che sembra che voglio fare i cocchi. E ancora siamo sempre capi, non che rumore non fare, che tutto sto mese è molto che assai per giù. Unfortunately, something is waiting for us, che è molto bello. E we speak tra parentesi graffa, some of the things of my sentences, ci collega il ritmo al secondo tempo, it's something bello. Ma tutto quando che si sente mezza mezzo che ci senti molto betti a chi m'abbracci a seconda volta che te reso molto picchisto che a mezza pieno iemo tu carina così and we are something about the essential che te ne diremo in da strada se vogliamo bene a te it's what we love and approximately it's my thing. La vita è stata, che in mezzo ci siamo, but this is so beautiful, and we like it a lot.